Bene, intanto benvenuti ad Antonio Pavolini e a Manuela Ennas. Guarda se è spento questo. Ok, forse è quello il problema. Sì, mi sa che adesso ci siamo. È la seconda anteprima della settima edizione del Festival Premio Lusso, dal vivo naturalmente, perché le precedenti siamo stati costretti chiaramente a farle via streaming, perché non era possibile chiaramente lavorare in altro modo. In qualche modo ci siamo salvati in calcio d'angolo. Quindi dicevo, la settima edizione del Festival Premio Lusso, un altro bel libro al Festival Premio Lusso, siamo veramente contenti di ospitare autori e libri di qualità, perché il Festival Premio Lusso si contraddistingue anche per questo, cioè per la qualità degli eventi che poi riusciamo a organizzare. Il libro che presentiamo stasera, appunto, Antonio Pavolini ancora, un framing, come difendersi da chi può stabilire cosa è rilevante per noi. Diceva Antonio a pranzo che è un libro che ti apre una prateria, cioè ti fa capire tante cose che avevi intuito ma che non avevi messo a fuoco. Questo libro è veramente importante, ve lo consiglio vivamente, perché ci apre un mondo e ci mette nelle condizioni di poterci per quanto possibile difendere da tutta una serie di situazioni e di cose che ci vengono imposte e di cui molto spesso non ci rendiamo neanche conto, anzi molto spesso non ci rendiamo conto. Allora, intanto voglio presentarvi i nostri ospiti. Antonio è un esperto di media, autore di Pendo Delivi, cioè un bel... uno dei primissimi podcast italiani. Si occupa da 16 anni di nuovi media, di comunicazione d'impresa e dei nuovi modelli di business editoriali. Fa inoltre parte della commissione didattica del Master Universitario di Marketing Management, della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università La Sapienza di Roma. Nel 2012, insieme ad altri autori, ha pubblicato Connecting Television, la televisione al tempo di Internet, edito da Guerini. Manuela Ennas, che tra l'altro fa parte della giuria internazionale del Festival Premio Emilio Lusso, è una giornalista iscritta all'Ordine dei giornalisti della Sardegna, ecco perché presenta questo libro insieme ad Antonio, fondatrice e direttrice editoriale della testata giornalistica Boxit.it, promotore culturale, è anche docente in lingua sarda e traduttore, è coautore del collettivo La storia sarda nella scuola italiana, collaboratrice in Sardegna per Rosa Digitale. Tra le sue pubblicazioni, profili biografici di emigrati in Argentina e Brasile nel secondo dopoguerra, in L'emigrazione dalle isole all'America Latina tra XIX e XX secolo, Centro Studi SEA. Allora, in questo libro Antonio ci racconta un attimino cosa ci dice tutti i giorni la carta stampata e non solo, che cosa viene pubblicato su internet e che percezione ha il lettore medio di cui noi siamo esponenti. Che cosa capisce e che cosa capiamo delle notizie che ci vengono propinate? Tu fai degli esempi, per esempio, di fatti di cronaca recentissimi, il Covid. Che cosa ha capito la gente del Covid, di questo virus, di che cosa è successo. E, come ti dicevo, stamattina mi sono svegliato con in testa una canzone poesia di Claudio Lolli che si intitola Autobiografia industriale, e dove vi leggo due cosettine per autobiografia industriale: viva l'amore con l'industria culturale, amore erotico e soddisfacente, ma in definitiva un po' troppo esauriente. A metà del secolo scorso c'era uno slogan che recitava: più cultura, più lotta di classe. Oggi, ahimè, c'è pochissima cultura e la lotta di classe credo sia un reperto archeologico che chissà dove andremo a pescare. Non se ne parla assolutamente più. E invece credo che in maniera democratica e non violenta una lotta di classe sarebbe fondamentale oggi. Mi fermo qui, do la parola a Manu che chiacchiererà con Antonio e vado via e vi lascio. Qua e qua sono due. Sì, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, grazie ovviamente per questo spazio che si Augusto ci concede, anche per parlare di temi che magari esulano da quelli tradizionali anche di un festival letterario, no? Che sono abituati, dove si parla sempre soprattutto di letteratura, di poesia, a volte anche di saggistica, ma questo tema io mi sono sentita di proporlo al festival perché ritengo che ormai ogni settore passi attraverso comunque o debba passare attraverso il discorso della comunicazione e dell'informazione. Io conosco Antonio da qualche anno, apprezzo molto il suo lavoro, soprattutto il suo sguardo che riesce a essere distaccato nonostante quelli lavori all'interno dell'industria dei media. E molto spesso per chi fa questo mestiere leggere un punto di vista che riesce a essere comunque fortemente oggettivo è fondamentale, soprattutto per chi fa questo lavoro, perché si occupa di comunicazione e di informazione. Quindi quello che fa Antonio è interessante per questo, perché riesce quasi in una dicotomia a essere il professionista che lavora all'interno dei media e allo stesso tempo accompagnarci in una lettura di quelli che sono i media attuali. Antonio ha già scritto un altro libro che si chiama Oltre il rumore, in cui già assondava e analizzava proprio il mondo dei media, come è cambiato con il media tradizionale rispetto a quello nuovo, no? A cui siamo abituati oggi, più che altro vedere come questi due mondi in qualche modo possono o non possono interferire tra di loro e se sono cambiati vicendevolmente influenzandosi. Quindi viene già da un'esperienza di analisi molto precisa dei media tradizionali e dei nuovi media invece. In questo libro allora lui affronta veramente il tema, come diceva Alessandro, che forse noi spesso vediamo ma non riusciamo a mettere a fuoco perfettamente, come invece fa Antonio in queste pagine. Anche noi abbiamo sicuramente la sensazione che molto spesso il mondo dell'informazione sia in qualche modo vincolato, viziato, non sia più libero. Ecco, però è difficile mettere a fuoco questa sensazione se noi non abbiamo dei dati. Quello che invece fa Antonio è davvero entrare nel profondo di questi argomenti e spiegarci perché oggi come oggi il mondo dei media è framing, non unframing. Unframing è il titolo del suo libro, ve lo mostro, vi rimarrà impresso perché ha una grafica molto accattivante. Ecco, lui lo lo chiama unframing, ma io direi che prima di parlare dell'unframing e quindi del capovolgimento del framing, sarebbe bene capire cos'è il framing, perché magari per noi del settore non è una cosa strana, però cerchiamo di definirlo meglio. Intanto benvenuto. Allora, intanto grazie Manu, grazie naturalmente al Festival Prevolus per avermi invitato qua, all'associazione Lambicco, insomma anche al Centro Culturale che ci ospita, per questa occasione per me importantissima, perché il libro è uscito dicembre del 2020, poi ci sono state almeno una ventina di presentazioni, tutte rigorosamente online, mi sono venuti gli occhi a quadretti, cosa per carità, è stato bellissimo, un'esperienza nuova, sono state esperienze che ti cambiano, però avendo comunque un'esperienza di video e di presentazioni precedenti, cioè adesso non sapete che gioia che è per me comunque rivedere delle persone in carne ed ossa. E provo a cominciare a rispondere alla domanda di Manuela: che cos'è il framing e perché ricorrere all'unframing? Allora, c'è una definizione accademica, quella forse di Maxwell Macomb, che dice che ormai i media non solo ci impongono i temi di cui parliamo, quindi il problema non è solo quello dell'agenda setting, ma ci dicono anche intorno a che cosa dobbiamo parlare, quindi anche da quale angolazione. Io faccio degli esempi per distinguere agenda setting da framing. Nella prima parte del libro, nella prefazione, mi è venuta una molto semplice con il famoso duello tra Matteo Salvini e Carola Rackete di un paio di anni fa, che tutti ricorderete. Per circa un mese non solo l'agenda dei media ha parlato esclusivamente di questo duello, non parlando di altre cose che stavano importanti che stavano succedendo quello stesso mese. Nel libro le cito, perché questo sarebbe il classico problema dell'agenda setting. Qualcuno potrebbe ricordarsi i tentativi che faceva Clinton di non far parlare i media dello scandalo Lewinsky, e continuamente lanciava nuovi temi, no? Quello è il classico agenda setting. No, ora siamo a un livello più sofisticato, il framing, e cioè sì, si parla di un tema attuale, perché indubbiamente gli sbarchi dei migranti, le politiche sono un tema attuale importante, però Salvini con grandissima, diciamo, furbizia, riesce a concentrare tutto il palcoscenico sul porto di Lampedusa. E siccome lui in qualche modo si agita da ministro dell'interno per fermare un simbolo ideale per lui, no? Di contrapposizione, cioè questa signora tedesca appartenente comunque a una classe agiata e che però, no? Cerca di difendere i migranti, di farli sbarcare in condizioni umane, e lui si oppone, no? Lui ha capito che questa è una chiave di semplificazione straordinaria del problema, che divide il paese in due: bonisti radical chic da una parte e persone che vogliono fermare gli sbarchi. Lui si autointitola, no? La capacità di fermare gli sbarchi, perché fa un po' di scena su quello sbarco che è sotto i riflettori, su quel palco. Nel frattempo in Sicilia, ma anche nelle altre coste, in quello stesso mese, in quella stessa settimana, ci sono decine di sbarchi di cui non parla nessuno. Ed è che stiamo parlando del tema dall'angolazione desiderata da Salvini. Una cosa affascinante è che tutti i media cosiddetti progressisti di sinistra, potremmo dirli anti-salviniani, raccolgono, non si rendono conto di essere finiti nella trappola. Anche loro parlano esattamente di ciò che vuole Salvini. Allora, il titolo del libro, Unframing, vuole indicarci la possibilità di uscire da questo schema, e ci sono due soluzioni. Una, potremmo dire nel lungo termine, aspettare che l'industria trovi un altro modo per remunerare, per esempio, l'informazione, i media. In questo momento il modello principale è il presidio dell'attenzione, quindi se Salvini riesce a recintare un palcoscenico, tutte le telecamere, tutti i microfoni vanno su quel palcoscenico, e questo remunera i media, perché si vende pubblicità con questa storia, tutti i talk show parlano di questa storia, esattamente dall'angolazione di Borodina. Se l'industria riesce a trovare un altro modello remunerativo, che per esempio potrebbe premiare la qualità del contenuto e non la capacità di presidiare la nostra attenzione, già questa sarebbe una soluzione. Io credo che non possiamo essere così ottimisti, stare qui a aspettare che l'industria in tempi rapidi possa evolvere in questo senso. E quindi il libro ci dà anche degli strumenti, almeno io provo a dare qualche strumento proprio al lettore per cominciare a, quando ti poni di fronte a un fatto, una notizia, ma anche il programma di un festival, per esempio. Un festival non centrato sulla qualità dei contenuti, come ha detto Alessandro, no? In questo caso, il Festival Premio Lusso, ma tanti festival che semplicemente per la propria sostenibilità economica, non perché ci sia un disegno malvagio dietro, ma proprio per una necessità di sostenersi economicamente, deve fare quello che le persone si aspettano. Perché se non fai quello che le persone si aspettano, quello che succede è che il tuo festival è considerato di serie B, ma come non hai chiamato l'autore di cui tutti parlano, non hai chiamato l'artista di cui tutti parlano, vedete, siamo sempre in quel talk about, e così sparisce la funzione anche del curatore, perché il curatore diventa un manager di attenzione, no? Da monetizzare. Quindi, così come questo problema c'è per l'informazione, c'è anche in una sfera più ampia, che io definisco la sfera degli intermediatori culturali, che comprende anche i giornalisti, ma si estende fino a ricomprendere persino chi confeziona un pacchetto turistico, cioè siamo nel mondo della cultura, siamo nel mondo dell'arte, tutto ciò che viene stabilito da qualcuno che deve essere rilevante per noi in un dato momento. Forse il mondo del giornalismo e della comunicazione sono quelli in prima linea, no? Poi è vero, come dici tu, che invece il problema dell'intermediazione riguarda un po' tutti i settori della società. Il discorso dei festival è molto attuale, soprattutto qui in Sardegna. Ultimamente poi, perché come dicevi, anche qui inizia a esserci quel meccanismo di domanda e risposta, no? Quindi il festival funziona se tu inviti quelle stesse persone che magari hai invitato un altro festival la settimana precedente. Alla fine questi festival sono tutti repliche, dello stesso cliché. Io spesso invece una lancia a favore dei nostri organizzatori, che invece hanno sempre il coraggio di fare scelte anche alternative e non per forza in linea con quelli che possono essere i dettami politici o dettami appunto che possiamo riscontrare nell'opinione pubblica, quindi si sono sempre impegnati per difendere quella qualità anche a volte a discapito di quelle che possono essere le attese di un pubblico che invece segue appunto un percorso commerciale. Quindi invitiamo l'autore del libro che vende di più, perché sicuramente verranno più persone, che poi di fatto non è assolutamente così, anche perché se tu inviti un autore che in Sardegna per esempio ha già partecipato a altre 5-6 presentazioni, è molto probabile che quelle persone siano già andate a quelle presentazioni. Quindi anzi, puntare sulle novità, sulle qualità e anche rischiare, ecco, a volte il discorso è quello di, come dicevamo prima, di noi, è quello anche di provare a continuare ad educare il pubblico verso la qualità, quindi non omologarsi, ma rimanere fedeli a dei principi diversi, sia per fare l'informazione, quindi per continuare a difendere una forma di informazione che possa essere slegata appunto da dettami politici, da dettami civili, culturali, quello che vogliamo. Il principio è lo stesso, vale per quando organizzi una mostra di fotografia, vale quando organizzi in questo caso qui da noi delle mostre magari sull'archeologia, vale quando organizzi un festival letterario. Rispetto ecco, al framing, anche noi qui in Sardegna possiamo dire che sicuramente siamo spesso dentro questa cornice, ci sentiamo proprio vincolati, voi per delle istanze che non sono ancora chiarissime, quindi se tu scrivi in un modo sei abbastanza sardo, se non lo fai non sei sardo, se tu apri un locale, faccio un esempio, che non fa la cucina sarda non sei un locale sardo, se tu presenti dei libri che non sono sardi non stai favorendo la cultura sarda. Di fatto non è così, perché abbiamo capito che in Sardegna per poter esistere ci dobbiamo continuare a relazionare con tutti gli altri, non possiamo continuare ad isolarci. Quindi il discorso della cornice, noi forse lo sentiamo tutti perché siamo anche un'isola, siamo già in cornice. cominciati da dei limiti. Tu dicevi appunto che esistono delle strategie per provare a non farci, ecco, a non entrare dentro quello che tu chiami anche il cerchio del successo, giusto? Perché alla fine succede questo, che anche volendosi allontanare da questi schemi, molto spesso invece si finisce per ricadere dentro e riniziare il ciclo, no? Quindi a volte è anche difficile riuscire a starne fuori. Sì, guarda, in realtà un primo indizio, di come si può provare a uscire, no? Qualche lampo fulminante di libertà ci arriva, io ne parlo in un capitolo del libro, proprio dal mondo dell'arte, della cultura, perché gli artisti, quando vogliono anche loro diventare presidiatori di attenzione, sanno che possono avere successo con una provocazione, va benissimo anche una provocazione, però deve essere una provocazione intellettualmente onesta rispetto alla necessità di avere un successo commerciale, per esempio di avere le proprie opere esposte in un luogo prestigioso, in uno spazio istituzionale, no? E non essere invece un artista underground che deve esibirsi nelle cantine, no? Ecco, dall'arte, per esempio, arrivano segnali di anticipazione, no? di quella che potrebbe essere la soluzione. È un mondo che fibrilla, che protesta rispetto a questo status quo in cui ci troviamo. Faccio un esempio, secondo me, storico importantissimo, quello che è successo a Documenta 14, Documenta, una grandissima manifestazione d'arte contemporanea che si svolge normalmente in Germania. In quel caso, con un gesto coraggioso, è stata data la curatela di questa mostra ad Adam Sisnik, non lo so pronunciare, un polacco, ci provo tutte le volte, ma fallisco, che era un curatore di 26 anni. E la prima cosa che ha fatto, ha detto, sì, perché la dobbiamo fare a Kassel? Facciamola un po' a Kassel, qui in Germania, come sempre, quindi all'interno di quel circuito, però facciamo anche ad Atene. Perché? Perché Atene in questo momento è tutto ciò che per noi tedeschi è sbagliato, sono quelli che hanno fallito, sono quelli che sono usciti dai parametri. Quindi chiamiamo gli artisti lì e vediamo se forse in realtà non siamo noi che stiamo sbagliando, per il fatto che fosse polacco per i tedeschi, vi lascio immaginare. Che tipo di riflesso, che coraggio. La manifestazione è stata quasi boicottata dal sistema dell'arte europeo e tedesco, ma ha lasciato delle tracce profonde. Perché? Perché ha messo a confronto modelli alternativi, ha aperto un fossato che si è riempito di senso nuovo automaticamente, non della ripetizione dello schema, per cui arriva la grande performer, perché non faccio il nome, ma potete immaginarlo, che provoca con la sua sofferenza, oppure il grande artista che solleva dubbi, enigmi, in realtà non c'è niente, però intanto ha sollevato l'enigma. No, quello che lui è riuscito a fare è scatenare quello che qualcuno ha percepito come un conflitto, in realtà era un confronto. Ha creato uno spazio agonistico, una macchina maieutica, direbbe Giorgio De Finis, che in piccolo ha fatto qualcosa del genere a Roma, con i suoi 15 mesi del macro asilo, no? Un museo completamente aperto alle proposte artistiche che si modificavano continuamente, no? Questo non vuol dire rifiutare l'intermediatore culturale, il curatore, ma significa far vedere al curatore che cosa significa educare alla scoperta, alla diversità, che è esattamente il contrario di quello che fa il curatore che deve obbedire ai media, il curatore che deve finire sul giornale, il curatore di cui bisogna parlare al talk show, il curatore che sa che per avere successo, per sfondare, deve essere uno di quelli che ha organizzato l'ennesima mostra di Raffaello del Caravaggio, la Scuderia del Quirinale, dove il successo della mostra si misura in relazione alla scarsa fruibilità della mostra. Cioè, più la mostra è scomoda, più ore di fila devi fare per andare lì, e più vuol dire che hai fatto il grande evento. E poi a Roma ci ritroviamo 200.000 persone che lì dopo cena sono contenti perché tra di loro hanno detto: abbiamo visto tutti la mostra di Raffaello, abbiamo visto tutti la mostra della scuderia del Quirinale, non c'è nulla di nuovo, non c'è una apertura, non c'è una diversità. Internet ci dà una straordinaria, ci ha dato, ci darebbe una straordinaria opportunità di ricerca della diversità, e invece internet stessa ormai commercialmente si sta organizzando in grandi circuiti chiusi, come sono le grandi piattaforme digitali, Facebook, Twitter, eccetera. A proposito di questo, volevo proprio fare una domanda, perché il problema del framing non è un problema degli ultimi anni, è sempre esistito, diciamo che già storicamente, no? Abbiamo tanti esempi di, in qualche modo, angolazione forzata della diffusione di certe informazioni. Già storicamente, a me da poco è capitato di fare un piccolo corso di giornalismo a scuola, e i ragazzi hanno chiesto: ma allora, per esempio, uno come Giulio Cesare era una prima forma di giornalista che però manipolava le notizie, perché ci ha voluto raccontare la sua notizia, per dire, ecco, effettivamente, quando poi tu metti in moto le menti dei giovani, ti poni anche in discussione, ti chiedi, effettivamente noi studiamo delle cose che sono delle manipolazioni, ovviamente, che non vuol dire che non si vadano a studiare, attenzione, però storicamente la tendenza a voler dare una linea, forse anche connaturata all'essere umano, al potere, ovviamente al potere, alla voglia di ottenere quel consenso in un certo modo, quando non riusciamo ad ottenerlo in maniera pulita, trasparente, o quando non ci basta quella maniera, ci costruiamo attorno una strategia per poter arrivare a quel consenso. Sicuramente il framing fa parte di questo processo, no? Che porta ad ottenere un consenso, facendoci comunque in qualche modo avere delle idee, e soprattutto portandoci, la cosa importante, a non verificarle altrove, perché se noi avessimo la voglia, ci prendessimo la briga, avessimo il tempo di verificare quelle notizie, non le prendessimo per buone, ci renderemo conto la maggior parte delle volte che quelle notizie non sono come sono, come dire, uscite dalla fonte, no? La fonte primaria, ma sono già state in qualche modo manipolate. Ma allora, guarda, l'esempio che fai di Giulio Cesare è fantastico, secondo me, perché effettivamente il grande condottiero che vince le guerre torna, ti racconta le guerre per se stesso, ma anche per i posteri. Naturalmente tutto questo nasce in un mondo in cui l'accesso alla conoscenza è ristretto a pochissime persone, no? E il tema dell'accesso alla conoscenza è esattamente ciò di cui stiamo parlando. Questi momenti di rottura dello schema, questi passaggi obbligati, no? Da un'epoca in cui pochi sapevano, pochi scrivevano, tanti sanno, tanti possono leggere, sono sempre momenti in realtà traumatici. Pensiamo per esempio a quando venne inventata la stampa a caratteri mobili. Sì, sicuramente ci fu una svolta tecnologica, però diciamo che nel giro di 60 anni dopo quell'invenzione, se qualcuno avesse detto: ma che cosa ci ha portato questa invenzione, in che modo il mondo è migliorato 60 anni dopo, la risposta sarebbe stata guerre sanguinose di religione in tutta Europa. E quindi giustamente molti pensavano, giustamente, cioè direi comprensibilmente, molti pensavano che i caratteri mobili erano qualcosa di satanico. Ma perché? Perché si pensava che quella rivoluzione tecnologica era qualcosa di cui si potevano commentare gli esiti in seguito alle conseguenze tecniche. Ma quello che tu non potevi vedere 60 anni dopo, quindi parliamo di molti anni, è che i problemi che si erano creati non erano i problemi della tecnologia, che anzi aumentavano l'accesso alla conoscenza, ma erano i problemi dell'apertura di un enorme spazio vuoto, quindi una terra di nessuno, nuova, che prima non c'era, e che quindi automaticamente diventa un campo di battaglia, e quindi una guerra. Quindi i problemi sono quelli della guerra. Ora, ho fatto questo paragone per dire che con internet non è successo qualcosa di così diverso, tutti i problemi che oggi vengono immediatamente associati a internet, questa sorta di dittatura degli ignoranti, il pressappochismo dilagante, la gente che sbaglia i congiuntivi, che scrive con le K, e poi la violenza, il sessismo che emerge nei commenti, no? Se una donna scrive un post, mette una foto magari in costume da bagno su Facebook, sotto ci sono, a un certo punto, dopo un po' c'è sempre il commento sessista dell'uomo, no? Questi non sono causati da internet, c'erano prima e internet ce li ha rivelati, e anzi ci aiuta a renderci conto che forse siamo in una società drammaticamente ancora dominata da un certo sguardo, per esempio sulla donna o su tutte le diversità. Tantissime persone della comunità LGBT, ha cominciato a poter dire chi sono, che cosa desiderano, perché hanno visto che ci sono altre persone che lo fanno nei forum. Prima non c'era un posto dove dirlo, non c'era neanche un posto dove organizzarsi e farlo. E allora si apre però questo terreno che è lo scontro tra il vecchio e il nuovo, non è solo la vecchia industria e la nuova industria, quindi tanti problemi che noi vediamo che, diciamo, è colpa di internet. No, internet ce li fa vedere e anzi ci poniamo il problema di risolverli. Poi c'è anche la reazione dell'industria. L'industria dei media che ha sempre avuto il potere, arriva internet, ti toglie un bel po' di potere e ha delle reazioni scomposte, quasi dei riflessi condizionati. Di questo parlo più inoltre con Moria nel libro precedente, che infatti viene considerato un libro un po' folcloristico, divertente, perché ci sono tutta una serie di aneddoti, storie vere di come l'industria ha sbagliato tante volte, no? Nel dire facciamo un giornale tutto per iPad, no? Disse un bel giorno Murdoch, e investì un sacco di soldi, un giornale si chiamava The Daily, perché sentivo l'obbligo di fare qualcosa di digitale? Stiamo parlando di Rupert Murdoch, c'è cioè una persona che di media credo capisce più degli altri, perché ci può anche stare antipatico, ma insomma su questo non si discute. Così come quella, ci sono tante storie di reazioni sconclusionate. Ora, 5 anni dopo, oltre al rumore, Ann Fleming racconta invece un momento diverso in cui anche la vecchia industria ha capito che può ancora fare qualcosa di molto importante in questo nuovo ecosistema. Può stabilire ancora che cosa è rilevante per noi, e lo può fare anche sui social media. Perché anche se i grandi editori e i grandi decani del nostro giornalismo, quando vanno ai festival, per esempio il Festival di Perugia, piangono disperatamente, dicono ormai non siamo più noi a fare le notizie le fa. La notizia la fa Chiara Ferragni, la notizia la fa l'influencer di Instagram. Esatto, vero, ci avrebbe corretto, in mezzo. E noi non contiamo più nulla. Ma non so, voi andate su Facebook e ditemi voi se il 95% delle cose di cui parlate sono le cose di cui parlano i giornali la mattina. Continuiamo a parlare di quelle 10 cose decise in una stanza da 10 persone, proprio nel momento in cui potremmo invece guardare fuori, se solo per un attimo staccassimo gli occhi dallo schermo e vedessimo, per esempio, anche quello che succede appena aperta la porta di casa. Sì, ma infatti, prima ho iniziato parlando del fatto che il framing esiste da sempre, da quando esistiamo noi, da quando esiste comunque la volontà di affermare il proprio potere rispetto ad altri. In effetti la possibilità che ci ha dato internet sarebbe stata proprio quella di scalfire questo framing. Invece alla fine internet e l'utilizzo che ne abbiamo fatto ci ha portato a costruire altri framing e non andare a distruggere quello esistente. Tant'è che appunto forse 5 anni fa in effetti si poteva dire che, allora i giornalisti avrebbero detto noi, i nostri concorrenti sono quelli che fanno le notizie gratis, no? Oggi come oggi il giornalista continua a dire noi, i nostri concorrenti sono quelli che si giocano quelle prime pagine e quei primi 10 argomenti di cui poi tutta la popolazione va a parlare. Quindi ci si è riomologati, peggiorando probabilmente, perché poi la divulgazione che avviene con internet raggiunge numeri e livelli che prima non abbiamo avuto con i media tradizionali, con il giornale, radio e via. Quindi adesso probabilmente internet ha amplificato, cioè non è riuscita a fare quello che potenzialmente avrebbe potuto fare, quindi restituire una libertà di informazione, di divulgazione, e ha finito per omologarsi e omologare di tutto il resto. Sì, diciamo che il trucco è stato questo. Le grandi piattaforme, quelle che hanno vinto, poi sapete che c'è la regola dell'assottiglia tutto su internet. Arriva Facebook, non c'è più spazio per un altro Facebook. Siamo tutti lì perché lì abbiamo tutti i nostri amici, no? E il primo modello remunerativo che hanno trovato, contrariamente a quello che chiunque altro vi direbbe, somiglia drammaticamente al vecchio modello dell'audience. Quando parliamo di engagement su internet, quando parliamo di ho fatto tante interazioni, ho fatto tante visualizzazioni, non c'è nessun modello sofisticato solo perché esiste un algoritmo che lo ha automatizzato. Non è l'automazione, l'algoritmo avrebbe cambiato di una virgola la premessa del modello, che è lo stesso della TV degli anni 80. Non è un caso che Hossein Rakhshan, un blogger, un attivista iraniano che fu mandato in galera, nelle patrie galere, per essere un dissidente sul suo blog, poi quando uscì dalla galera che trovò un internet, disse no, questa è la televisione. Cioè prima c'erano i blog, adesso siamo tornati, c'è di nuovo la televisione, una TV un po' più sofisticata, un po' più automatizzata. Ma perché? Perché Facebook, queste grandi piattaforme hanno vinto perché il loro modello preme di nuovo il presidio dell'attenzione. E anzi, il mondo dei vecchi media, che avrebbe le teste pensanti umanistiche per stabilire un nuovo criterio che potremmo definire autoriale, editoriale, no? Intellettuale, perché no? Per stabilire cosa veramente rilevante per le nostre vite, no? Cioè, Moravia, Pasolini, cioè, queste sono persone che dall'oggi al domani ti aprivano uno squarcio e ti dicono guarda che questa cosa è importante per te, no? Perché effettivamente si stanno approfittando di te, per esempio, no? Ci diceva per Paolo Pasolini a un certo punto. Tutto questo non, cioè, come una specie di peccato originale del vecchio intellettuale che si rende conto che non vuole ammettere di essere anche lui diventato uno strumento commerciale, perché anche lui ha bisogno di celebrità. Adesso forse è il momento di fare una cosa di cui io stesso mi sento veramente molto piccolo nel farlo. Però l'anziano e grandissimo Umberto Eco, quando diceva che internet è un mondo dove ci sono legioni di imbecilli, lui sapeva che automaticamente avrebbe avuto un titolo di giornale nel dire questa cosa. Perché il fatto, il momento in cui diceva questa frase, era quando gli davano una laurea ad onore. Però capite bene che superati gli 80 anni, Umberto Eco ha preso l'ennesima laurea ad onore, non è una notizia. È una notizia se lui dice, ah sì, vediamo cosa dice il grande intellettuale di internet, devo dire qualcosa di forte, qualcosa di conosciamo. Ecco, in quel momento lui ha smesso di essere un intellettuale. Lui, in quel momento, era grandissimo, anche massmediologo, perché è grandissimo intellettuale, ma anche un grandissimo massmediologo, come sappiamo, ha applicato la ruota del criceto. La regola che ci tiene lì, perché noi leggiamo quell'articolo su Umberto Eco se ci, automaticamente per il fatto di leggerlo, di condividerlo, ci autocollochiamo nella parte che non è imbecille. Lui ha giocato sulla leva identitaria, sta dicendo chi la pensa come me non fa parte di questa categoria, non è un imbecille. Ora, naturalmente nel mondo ci sono legioni di imbecilli, internet ce li fa vedere così come esistevano prima. Lui era ben conscio che poi quel momento sarebbe rimasto soprattutto poi sui social, perché tuttora se voi digitate Umberto Eco probabilmente la prima cosa che ci viene fuori è proprio questa, quindi lui è passato dall'altra parte perché è caduto anche lui nella rete in maniera conscia, però poi ovviamente in qualche modo ne fa parte, quindi anche il ritrovarlo per chi fa parte di questo mondo, ritrovarlo dentro quell'argomento lo ha portato a quel livello. Quindi c'è sempre questo dibattito, no? Esporci sul social, non esporci, rimanere solo appunto sui media tradizionali o lasciarsi contaminare. La differenza è sempre quella, è sempre l'utilizzo che noi facciamo dei media, sia tradizionali che non tradizionali, sempre quello che c'è nuovo che fa la differenza. Ancora di più, Manuela, perché si dice sempre, non è colpa di internet, è l'uso che ne fai. Io aggiungo sempre un livello, è il modo in cui ci fai i soldi. Perché, come dire, è l'uso che ne fai, sembra sempre colpa nostra, no? No, sfogliamo la timeline, andiamo su YouTube, vediamo su del video dei gattini, premessa, a me piacciono tantissimi i video sui gattini, chiusa parentesi. Sembra che siamo noi dei pigri, no? Che non... No, non è solo, tra virgolette, colpa nostra, è anche il modo con cui si decide di fare soldi. Allora, se Zuckerberg, che non è un editore, dice io domino tutto con un modello che è l'automazione del vecchio modello televisivo, perché di questo stiamo parlando, ma chi siamo noi per dire sei tu che stai uccidendo la cultura, che è fondamentalmente quello che gli dice Baricco nel libro The Game, ok? Che è un ottimo libro, un bellissimo libro che ci rivela tante cose, ma il problema non è, scusate, che c'è una classe di ingegneri bianchi californiani che dall'oggi al domani distrugge la visione umanistica e intellettuale dell'Europa, perché questo è il tema di The Game, gamificando tutto, trasformando tutto in una rapida, diciamo, un rapido appagamento dei nostri istinti primari attraverso questi che ormai sono dei giocattoli, uno dice arriva l'iPhone, ma no, non è quello il problema, è che, come dire, voi con la televisione, la televisionizzazione, scusate questa parola che non esiste, però vi rende l'idea, no? Di tutto l'universo dei media, già da prima, quando siete diventati delle star, voi intermediatori culturali, avete già ampiamente preparato il terreno per questa ulteriore e ovvia evoluzione. Cioè, faccio un altro esempio, se mi permetti. Quando a livello pubblico, proprio di presa di responsabilità di un paese che ha a cuore lo sviluppo della cultura, si decide che ogni regione deve avere non solo i propri programmi nella lingua, ma proprio il proprio canale e i propri canali verticali, come si fa in Germania. No? In Germania molto prima della moltiplicazione dei canali, già negli anni 70, ogni land aveva la sua TV e la sua radio e la sua orchestra classica e la sua orchestra jazz. Cioè, oggi queste sono macchine che producono cultura. Qui da noi, nel 2021, se abbiamo una macchina che produce ancora molta cultura, grazie al digitale, anche un po' di pluralismo, Rai 5 pensiamo, abbiamo una macchina finanziata da una tassa che produce cultura, noi stabiliamo che la Netflix della cultura deve fare una startup che ti fa pagare quello che la Rai ti dà gratis. Questo sarebbe il modello. Mi ha bruciato una domanda, cosa te la volevo fare? Effettivamente, questa tra l'altro si è dibattuto molto di questa idea che ha visto Franceschini della Netflix della cultura, che viene proposta come una, come dire, una soluzione innovativa che nessuno aveva mai pensato. In realtà è una replica di qualcosa che esiste benissimo, cioè non c'è nulla di innovativo e anzi sembrerebbe quello che viene servito su un piatto d'argento, perché come dicevi tu, noi abbiamo già un servizio pubblico, un canale che dovrebbe fare questo servizio e che lo fa. La Netflix della cultura è, secondo me, poi ovviamente saprei dirmi meglio di tu, è invece proprio la conferma di quello che dicevamo, la voglia di arrogarsi ulteriormente a un modo che dovrebbe essere quello innovativo di fare cultura che viene promosso dai nuovi media. In realtà non c'è nulla di nuovo nel creare, e tra l'altro con una formula che, come dire, sarebbe anche discutibile, no? Sì, ma adesso non entriamo nei meccanismi economici, con quali soldi questa cosa viene fatta, perché... Però stiamo parlando di industria, alla fine sì, stiamo parlando di industria. Allora, il problema è sempre questo. Rispetto a 5 anni fa, quando io scrissi Oltre il rumore, adesso il mondo dei media, della cultura ufficiale, degli operatori della cultura, eccetera, ha capito che ancora un ruolo insostituibile ce l'hanno. Stabilire che cosa è rilevante per noi. Il sottotitolo di Unframing dice perché dobbiamo difenderci, già contiene una premessa, cioè scusate, come difendersi contiene una premessa, che abbiamo stabilito che dobbiamo difenderci, ma come difenderci da chi in realtà potrebbe aiutarci? Il problema non sono loro, il problema è il modo in cui hanno deciso di essere remunerati. Quindi se troviamo il modo di remunerare quella che è la loro vera grande capacità, perché in Italia abbiamo degli straordinari curatori, sottolineo, soprattutto i giovani curatori che sanno usare la rete per trovare i talenti, la rete grande, non la rete degli amici, ok? Abbiamo anche dei giovani giornalisti straordinari che sanno tirare fuori una notizia dai dati, dagli open data, e che non hanno bisogno di un archivio di tutti i quotidiani conservati in un armadio. Abbiamo in realtà, questo è un paese poi che esprime particolari competenze nell'arte, nella cultura. Siamo il paese a cui tutto il mondo chiede di fare questo lavoro per il resto del mondo, ok? Siamo il secondo paese al mondo per point of interest, che sono quei punteruoli rossi che trovate su Google Map e che sottolineano i luoghi che hanno un senso per tutto il resto del mondo, cioè per tutti gli utenti di Google Maps. Siamo il secondo dopo la Francia, che non è un caso, la Francia è anche il paese, diciamo, turisticamente più attraente per metro quadro, diciamo. E quindi noi avremmo in realtà una grandissima opportunità, e invece di coglierla, in questo momento noi stiamo. Il mondo dell'intermediazione culturale dice, è preso una specie di panico, ormai è tutto nelle mani delle piattaforme digitali, vanno a una grande velocità, noi dobbiamo correre più veloci di loro. Gravissimo errore, perché significa scendere sullo stesso piano, iscriversi allo stesso campionato, ma chi ha detto che bisogna salire sulla stessa ruota del criceto? Se vuoi difendere la tua professionalità di giornalista, ma devi scrivere un articolo in 3 minuti, le famose fast news. Se vuoi dire qualcosa di nuovo nel mondo della cultura, dell'arte, devi fare un festival, tra virgolette, strano. Non devi fare il solito festival. Se tutti fanno il festival della mente, della filosofia, della letteratura, eccetera, quindi c'è sempre questa specie di compagnia di circo, no? Te li trovi sempre, sono sempre loro, e se non ci sono loro, allora non ci devi andare. No, devi rompere questa ruota, e internet ti darebbe questa possibilità, è la piattaforma naturale, però dobbiamo guardare fuori dalle grandi piattaforme, perché là fuori c'è uno spazio pubblico digitale che è importante esattamente come uno spazio pubblico delle vostre piazze, delle vostre scalinate, delle vostre spiagge, okay. È altrettanto importante, perché più qualcuno va lì e dice ok, il modo facile per fare soldi qui è questo, ed è già perso. Quello pezzo di spazio pubblico che siete già perso, online e offline. Allora, tu di spazio su internet ne hai molto, perché comunque sei comunque una faccia importante in questo ambiente, in questo panorama, non lo diciamo per piaggeria, ma è così, è anche importante, insomma, che tu venga spesso ascoltato su questi temi. Però vedo anche che probabilmente quello spazio non ti basta, e giustamente cerchi di riprenderti anche uno spazio forse più vitale, più individuale, per esempio con il podcasting. Ecco, podcasting è un'idea, tra l'altro lui mi spinge sempre, lo dovresti fare, hai ragione, lo dovresti fare, è veramente forse uno di quegli spazi che ci è rimasto, in cui mettere dentro quello che abbiamo da dire senza che qualcuno ci dica che va bene, che non va bene, che va bene, che non va bene, o che comunque si invia, non si invia, forse un po' come i vecchi diari, però condivisibili, quindi in quello spazio aperto che noi in qualche modo ci possiamo riprendere. Sì, allora, il fatto che io facessi dei podcast per tanti anni, nei primi anni, proprio pionieristici, era più, non c'era tutto questo grande slancio intellettuale, lo dico, era più la voglia di sperimentare, era un giocattolo. Però intanto si sperimentavano, non io, non solo io, tante persone sperimentavano nuovi linguaggi, ascoltavi un podcast e non avevi quella sensazione devastante di quando ascolti, perdonatemi, Radio 24 a me piace tantissimo, però capisci che ogni secondo su Radio 24 è un jingle, una sigla, qualcuno che ti dice una cosa, no? Cioè, una rincorsa continua, non c'è mai una pausa. Perché? Perché il linguaggio del tempo radiofonico, mi scherzavo ieri con, l'altro ieri con Massimo Cerofolini di Eta Beta, no? Eravamo a una trasmissione radiofonica, lui è bravissimo, però parla ad una velocità incredibile e io non riesco a stargli dietro, ma perché? Diceva il suo tecnico, se non fai così cambiano canale. Il podcast ti permetteva di esplorare linguaggi fuori da questi vincoli. E quindi c'era questo. Oggi, dopo tanti anni, il podcasting è ancora un'isola felice. Perché effettivamente rispetto alle piattaforme chiuse, il mondo di Facebook, il mondo di Amazon, il mondo anche di Google, no? Con che noi crediamo di fare una ricerca libera su Google, ma naturalmente questo non succede. Il podcasting, per quanto le piattaforme siano molto più chiuse rispetto a 15 anni fa, quando cominciai io, è ancora una zona di grande libertà espressiva. E quindi anche per esempio i grandi gruppi editoriali, quelli che io un po' bastono nel libro, come il gruppo Jedi, riescono a fare cose straordinarie solo perché fanno podcast. Quindi hanno fatto Veleno, che è un capolavoro, direi, di narrazione, proprio letterario. E soprattutto la cosa bella, fuori dai grandi gruppi editoriali, che c'è ancora spazio per un'editoria indipendente, direi una microeditoria, che rompe le tassonomie del tollerabile, cioè dice proprio cose che non siamo abituati a sentire. Penso per esempio ai vari podcast appunto delle comunità LGBT o per i diritti delle donne, che adotta un linguaggio anche caustico, anche doloroso, soprattutto per noi uomini, ma di cui abbiamo drammaticamente bisogno, perché se continuiamo a stare nei binari della comunicazione mediatica troveremo sempre il comizio dove il leghista giustamente ottiene attenzione perché dice sì, la colpa è di queste ragazzine di 15 anni che vanno in giro a minigonna. È questo il messaggio vincente, vince, perché i giornali ne parlano tutti, anche i giornali che si indignano per questa uscita. Improvvisamente questo leghista, che prima nessuno sapeva chi fosse, tutti sappiamo chi è, ha davanti una grande carriera, perché Borghezio e Calderoli come sono diventati grandi? Uno agitando una mortadella in Parlamento, l'altro indossando una maglietta che insultava Maometto. Come si costruiscono le grandi carriere del consenso? E attenzione, io sono convinto nel profondo che quel signore non ha nulla contro Maometto, è solo un grande stratega della comunicazione, funziona in questo sistema malato dei media in cui siamo. Quindi, dato che non possiamo dare una pasticca di tachipirina all'industria dei media e fargli passare il sintomo, non succede, bisogna aspettare parecchio, ci vogliono delle generazioni, soprattutto le generazioni dei giovani giornalisti, ok? Io guardavo te, insomma, non solo te, ok? Nel frattempo noi individualmente come fruitori di questa industria abbiamo delle chance di venirne fuori. Nel libro, nelle ultime 20, faccio un po' di teaser, nelle ultime 20 pagine qualche suggerimento c'è. Ti ho detto che non sono giovane, ma perché effettivamente a pagarci bene, poi molto spesso sono proprio i giovani che non osano più, questo lo dico perché è più facile. Hanno spesso la capacità, ma non hanno spesso la volontà, ma anche perché gli stiamo anche togliendo l'energia, la voglia di crederci. C'è comunque una omologazione di partenza, cioè figurati uno che inizia a lavorare, che magari ha trovato un lavoro, figurati se si oppone alle major, anzi è portato contrariamente a fossilizzarsi sulla linea magari editoriale per tenersi il posto tranquillo, ecco, le note di classe che diceva prima Alessandro probabilmente non ci sono più anche per questi motivi. E comunque Antonio proprio sull'ultimo capitolo dà una serie di consigli per in qualche modo proprio difenderci, ci sono, non tolleriamo, ma ci sono dei consigli. Beh, uno lo posso dare. L'ho già fatto in altre presentazioni, la cosa bella è che parlando così sembra che tutto il mondo sia in attesa di questa grande riesma, non frega niente a nessuno, visto che siamo qua. Invertire il flusso, cioè, tutto quello che facciamo comunque anche nella vita fatta di atomi o di persone in carne ed ossa è una conseguenza di quello che abbiamo visto sullo schermo in questo momento. Internet è fantastico perché in realtà ci ci permette di fare cose straordinarie su quello schermo dopo aver visto cose nel mondo degli atomi. Quando parliamo di musei digitali, no? Sempre più spesso vengo chiamato nei dibattiti sui musei digitali, bellissimo, sì, subito c'è questo clima di realtà virtuale, di augmented reality, quindi un sottofondo di musica di Jean-Michel Jarre, no? E quindi gente che si atteggia un po' come i Rockets o i Kraftwerk. No, cioè, il museo è un museo di carne ed ossa, il museo di atomi, ha un valore straordinario. Internet ha un valore straordinario perché tu nel luogo fisico cogli le suggestioni, ma il tempo che tu hai a contatto con quel luogo fisico, con la mostra, con il concerto, con un momento culturale, è limitato dal vincolo fisico. Ma dopo internet ti dà una possibilità incredibile di approfondire fuori dalle piattaforme, per esempio su Wikipedia o su OpenStreetMap, ma questi mondi aperti che sono fuori. A me succede spesso di andare a un museo a fare delle fotografie col telefono, anche soltanto al bugiardino che sta sotto un quadro, perché mi ha colpito, ma poi io devo vedere 20 quadri in 20 minuti, poi finisce la pausa pranzo. Mi sono ricreato, ve lo confesso, una nicchia a casa mia con un videoproiettore dove poi la mostra continua, perché posso approfondire le cose che qualcuno, un curatore intelligente che ha preparato quella mostra, poi mi ha dato lo strumento. Ci avete fatto caso che i miei musei sempre più spesso vi lasciano dei flyer, delle cose da portare, per esempio c'è sempre questa borsa pesante. Questo è già un primo passaggio, ma possiamo farlo noi. Ci sono delle app come Google Lens, che fa la foto a un quadro, poi lui ti dice tutto di quell'artista. Quante volte vediamo un film nuovo che esce, per esempio Nomadland, no? Questo bellissimo film uscito quest'anno, in piena pandemia, e poi per capire chi era questa attrice protagonista che non tanti conoscevano, siamo andati su internet, in un database, siamo andati su Wikipedia, abbiamo visto altri film, ma lo spunto c'è nato nel mondo, scusami, non voglio mai dire mondo reale, perché anche internet è mondo reale, nel mondo degli atomi, poi nel mondo dei bit, no? Invertire il flusso, non farsi dire cosa fare nel mondo degli atomi, dal mondo dei bit, ma approfondire quello che abbiamo visto nel mondo degli atomi su internet. Un'inversione di rotta, ti faccio un'ultima domanda, poi magari vediamo se qualcuno dal pubblico vuole intervenire. Tu prima hai citato il discorso della lingua, ecco, per noi che abbiamo una lingua minoritaria, il framing che abbiamo subito ovviamente è ulteriormente maggiore, perché questa lingua minoritaria per tanti anni ci è stata negata la possibilità di utilizzarla a scuola, negli ambienti intellettuali, anzi veniva relegata come una lingua di serie B se non C, eccetera eccetera. Quindi noi abbiamo subito anche questa cornice, ecco, relativamente alle lingue minoritarie in generale, a quelle che si sentono minoritarie rispetto alle lingue dominanti, quindi per noi certo l'italiano, ma anche l'inglese, l'imperante, eccetera eccetera, ecco, come sono secondo te utili questi moti che noi abbiamo per recuperarle, per cercare, lo dico perché tu sai bene che io mi occupo anche di questo aspetto, ecco, per me quell'individualismo, riuscire a raccontare qualcosa, ecco, io lo faccio proprio quando scrivo in sala, la mia libertà è quella, forse a volte anche la libertà che non tutti capiscono quello che scrivo, proprio perché non tutti poi conoscono quella che è la nostra lingua. Diciamo che mi stai dicendo una cosa che è quella che a volte dicono certi adolescenti francesi, che per non farsi capire dai genitori invertono le parole, no? E usano il verlon, invece c'è il dialetto all'inverso, Anvers, verlon. E ovviamente sì, non internet, ma la parte aperta di internet permette persino alle comunità intorno alle lingue minoritarie, ma anche alle culture minoritarie in generale, di entrare in contatto tra di loro e di riconoscersi e scoprire che combattono spesso le stesse battaglie, no? Mentre prima quello che funziona è proprio guardarsi a distanza, non guardarsi negli occhi. Io sto qui dentro, ho capito che qui dentro funziono, sono importante, e tutto rimane chiuso in un altro circolo, di nuovo la ricerca di un circolo. Invece no, queste piccole bolle, poi sul tema delle bolle bisognerebbe fare un approfondimento, sulle piccole bolle se entrano in contatto tra di loro scoppiano. Però questo succede dove c'è l'oceano, dove c'è l'acqua. Se qualcuno invece fa la piscina e dice guarda le cose succedono in piscina, ok, è quello che succede su Facebook. Su Facebook io vedo grandi appunto litigate su io sono più sardo di te, no? Per fare un esempio doloroso per mano, ma succede drammaticamente anche nel mondo, tra virgolette, dei mass mediologi, succede nel mondo, scusate, appunto dell'arte, no? Si vedono delle conventicole incredibili che non usano internet per fare sistema, usano internet per affermarsi identitariamente e cannibalizzarsi a vicenda. Ecco, questo è un uso di internet assolutamente sclerotico e improduttivo. Andiamo fuori dai circuiti, andiamo fuori dalle piattaforme, dalle conventicole, e non funzioniamo come quei forum di vecchi ferrovieri, che io adoro però, dove quando arrivi e non sei nessuno e ti scrivi, la prima cosa che succede è che il capo pavimento, che è in pensione da 5 anni, ti bastona, ti umilia davanti a tutti, e tu devi accettare questo rito di iniziazione. Poi dopo potrai avere l'onore di parlare di scambi e luci di segnalazione che per l'ultima volta vengono attivate su una ferrovia turistica, e c'è qualcuno che va lì alle 3 di notte e fa la foto e la pubblica sul forum. Questo vuol dire usare l'esclusività, la competenza di un tema per la rivendicazione identitaria. Succede anche sul forum, per esempio, LGBT, succede, non so, vai, perché spesso in realtà sono in guerra tra di loro, e questo sta diventando un problema. In effetti quello che potrebbe essere quel mare di confronto diventa poi invece un mare di contrapposizione, e anche qui dimostriamo che l'uso e l'abuso comunque non vengono ottimizzati e al contrario vengono negativizzati, perché probabilmente non abbiamo capito fino in fondo che questo è il modo di manipolare quello che arriva agli altri. Io rimarrei ancora veramente tanto, perché non so se vi ho dato l'idea di quanto lui sia competente in questi argomenti. Bisognerebbe approfondire perché ha veramente tanto da raccontare, però magari avete voi qualche curiosità, qualche domanda da rivolgervi, non so, chiedo a voi, altrimenti io continuo. Abbiamo un vincolo vero e proprio, che è la batteria della telecamera, sì. Questo l'abbiamo capito. A voi mi blocco, se finisce la batteria mi blocco, okay. Chiedo 2 minuti di interrompere. Comincia a lampeggiare. No. Abbiamo ancora 13 minuti, perché mi devo interrompere? Questa per voi è una salvezza, vuol dire che tra 13 minuti ve ne potete andare. No. Qualche domanda? No, io ho pensato alla storia di Borghezio, no, tanto una voce abbastanza, che lui l'ha fatto semplicemente per farsi pubblicità, per finire sui giornali. Io credo che sia veramente fascista e razzista fino al midollo. La premessa è avere, scusami, abbastanza pelo sullo stomaco da non preoccuparsi di questa accusa. Quindi la premessa è non sono abbastanza democratico da avere paura di essere considerato fascista e razzista. E questa è la premessa. Una volta che ho fatto questo, siccome so come funzionano i media, allora mi metto una maglietta di Maometto una settimana dopo cosa era successo. L'altro grande rivista satirica francese che aveva subito l'attentato, no? Charlie Hebdo aveva subito l'attentato per gli integralisti islamici. Quindi una settimana dopo fare questo è un livello di irresponsabilità, perché poi da oggi al domani il comando in Italia. In quel momento poi lui è diventato più di quel, no, è Calderone che è dentista, no? Borghezio invece non è. Sì, Borghezio era salito sul treno, era salito su... disinfettato con l'altro, sì. Colore. Queste cose, in una certa epoca storica, adesso abbiamo superato quell'epoca, che queste uscite non funzionerebbero più. Quindi chi si scaglia contro il politico corretto forse prende magari qualche risultato invece è stato ottenuto, no? Quindi queste cose non sono più tollerabili nemmeno per la nuova Lega un po' più presentabile, no? Che abbiamo adesso. Visto che hai citato il politico di corretto, io direi che a volte il framing viene costruito anche esageratamente verso questa direzione, no? A volte si sta adesso costruendo, esagerando con la volontà di essere appunto politicamente corretti e secondo me si sconfina dall'altra parte. Come sempre gli estremi poi a un certo punto si incontrano, no? Ma perché? Perché è facilmente monetizzabile l'estremismo anche da quella parte. Il mondo dei media immediatamente remunera le voci più forti, a prescindere dall'esistenza di un reale contenuto. E quindi oggi effettivamente è difficile capire dove sta, fino a che punto c'è in quel meccanismo, no? Una certa onestà intellettuale. Bisogna avere un grande rigore. Io diffido di chi fa delle uscite in 140 caratteri su questi temi. Se invece magari ha scritto un libro anche duro, ma di 400 pagine, forse dietro c'è un lavoro di ricerca che ti porta magari a avere posizioni anche molto dure, no? Però almeno sostanziate, argomentate. Ma iniziale parlavamo, per esempio, dell'ultimo fatto, insomma, in qualche modo ci fa riflettere sull'esigenza di doversi inginocchiare per dimostrare che si è razzisti. Ecco, quasi una pretesa, come se poi quel messaggio passasse solo attraverso quel gesto. La domanda che nessuno si pone è: ma scusate, ma chi ha stabilito che il canale per dire che l'Italia non è un paese razzista è un programma televisivo in prima serata visto da 13 milioni di persone perché dobbiamo spezzare le reni al Belgio, fondamentalmente? Ma chi ha stabilito che è quello? È importante che ci siano i gesti simbolici, che si approfitti delle grandi momenti di esposizione, il Festival di Sanremo c'è sempre a un certo punto, no? Un grande momento politico, no? Che però ha sempre quel retrogusto di rospicceria, di già sentito. A me invece piacerebbe essere stupito da una federazione italiana gioco calcio che dice no, noi effettivamente questa campagna non ci appartiene perché noi facciamo grandi cose contro il razzismo, per esempio regaliamo adesso 1000 stage a figli di migranti nelle nostre scuole a Coverciano, no. E poi arrivano 1000 cucù e il Belgio non vincerà mai più perché gioca con la maglia azzurra invece che con la maglia verde, quel campione che abbiamo visto ieri che ci stava per fare molto male. E poi queste situazioni ci mettono anche in forte imbarazzo, perché sono framing sia che tu la faccia sia che tu non la faccia. Scusate, un'altra cosa, ma l'avete visto tutti quelli che si indignavano perché la nazionale non si inginocchiava? Poi ieri abbiamo tutto il Belgio, io sono andato sulle loro timeline, esultavano tutti, non dicevano io non tiferò mai più l'Italia. Nel giro di 24 ore sono diventati tifosi sfegatati. C'è un grosso problema di memoria, cioè noi non consideriamo più che abbia un valore quello che abbiamo detto 24 ore prima, sono i politici ad avercelo insegnato, però ora lo facciamo anche noi, crediamo anche noi di poterlo fare, ma perché no? Cioè io prima insultavo i meridionali, ora faccio la Lega Sud. Tanto ce lo siamo dimenticato chi è e chi non è, no? Se ha una storia, ok. La stessa cosa, chi si indignava, io vi giuro, sono andato a riguardarmi tutte le loro bacheche, foto di esultanza, grande insigne, grande Italia, spezziamo le reni, chi è il prossimo? La Spagna, eh. Capite bene che questo vuol dire essere esattamente nella ruota del pesce, capire che cosa funzionava 24 ore fa, e capire che cosa funziona 24 ore dopo. E funziona perché sotto c'hai 50 like, e nel piccolo stiamo riproducendo individualmente le stesse logiche tristi, tutt'altro che innovative, dell'industria del meglio. Lo facciamo individualmente. Siamo diventati dei piccoli replicanti, almeno di questo sistema che, per cui ci lamentiamo, ma che non abbiamo, probabilmente non abbiamo gli strumenti ancora per poterlo combattere fino in fondo, o in alcuni casi, come dicevamo prima, non abbiamo la volontà di farlo, perché forse c'è anche un discorso di comodità nel far parte di un mondo che, bene o male, ci insulta, però ci lascia anche lo spazio per insultare. Nessuno vuole essere tagliato fuori, non vogliamo sentirci fuori da questa ruota, da questo, perché è come essere isolati. Se, eppure è incredibile, perché vedete, se abbiamo una storia che umanamente, intimamente ci ha cambiato la vita e la raccontiamo su Facebook e non sta su nessun giornale, quello immediatamente scatena delle grandi reazioni, vengono fuori anche i buoni sentimenti dei tuoi amici che ti sono vicini magari in quel momento, no? Esatto, cioè, invece no, noi vogliamo dire la nostra su cose decise da altri, non vogliamo raccontare la nostra chi siamo, abbiamo paura se facciamo vedere qualcosa di diverso da questo ciclo. Forse anche i media ci hanno spaventato, no? Dicendo che ci sono questi grandi fratelli che ci guardano e che ci registrano, eccetera, come se loro cercassero disperatamente di fare lo stesso dall'invenzione del MITER nel 1971. Che cos'è il MITER? Era con una tecnologia molto più scarsa, quello che oggi fa l'algoritmo con i big data. Ma voi siete convinti veramente che, facciamo un po' di nomi, Bertelsmann, Murdoch, Berlusconi, Pearson, i grandi editori degli anni 70 e 80, se vi davi l'algoritmo avrebbero detto no, noi questo non lo usiamo, non lo usiamo perché i dati delle persone sono sacri. Cioè, i negozianti, le catene dei negozi giapponesi mettevano delle persone davanti ai negozi a descrivere tutto quello che passavano davanti alla porta. Le nostre città sono piene di telecamere che ci guardano tutti i giorni, siamo in una situazione di videosorveglianza di massa, di cui neanche ci rendiamo conto. Appena c'è una tecnologia per fare questo, chiunque ce l'ha in mano la sfrutta. Non ci sono i vecchi buoni contro i nuovi cattivi. Ci sono. C'è uno scontro di industria tra capitani della vecchia e della nuova industria. Chi ci rimette sono sempre i soldati semplici, noi che ci dimentichiamo di essere cittadini. Se non ci sono domande, io a questo punto inviterei Antonio al nostro festival a ottobre per fare un podcast in diretta, perché potrebbe essere un buon modo, una nuova narrativa anche del festival, potrebbe essere interessante raccontarlo anche così e non solo come fino adesso è stato fatto in maniera più tradizionale, però potrebbe effettivamente essere una chiave di lettura che racconta qualcosa in più di noi, loro che organizzano e di chi parteciperà. Quindi ci hai dato una buona idea. Mi farò venire delle idee quando parlo con Alessandro. E parte che si ringrazio ancora. Va bene, non so. Posso dare un discorso di fregi, omologazione e polarizzazione. Io spingerei su questo, perché. Poi se leggi il libro ti pentirai, perché ah no, ci sono 40 pagine su questo, quindi diciamo, io purtroppo non bisogna mai darmi il là, perché poi alla fine mi allargo sulla polarizzazione, sul hate speech, su come addirittura si può dire che il famoso discorso d'odio, no? Tutti i convegni degli ultimi 5 anni sul discorso d'odio si dà per scontato che si parla del discorso d'odio online, dimenticando forse che cosa è stata la televisione commerciale degli ultimi 30 anni. Basta vedere qualsiasi puntata di blog degli ultimi 30 anni, che allora se tu dai a uno improvvisamente che ha visto questa TV per 30 anni una tastiera dove esprimersi, che cosa difficilmente potrà scrivere di Filippi, di Kierkegaard dentro la tastiera, di che cosa, cioè il modello è Maria De Filippi, infatti lo ritroviamo con la stessa dinamica identitaria. I temi vi dovrebbero risuonare. L'invidia, no? Come le scritte sul retro dei camion, invidia crepa, no? L'odio, noi siamo il partito dell'amore. Cioè, i messaggi che noi stiamo restituendo sono quelli della TV degli ultimi 30 anni. Quindi hate speech è il petrolio della vecchia industria dei media e, surprise, surprise, l'odio è il petrolio della nuova industria dei media che ha stretto una nuova ed eterna alleanza, come si dice la domenica mattina, con la nuova con la vecchia. Fanno finta di essere in competizione, in realtà ci fanno correre felici sulla stessa ruota. Perché coinvolge di più l'odio. Certo, l'odio fa engagement, fa audience, faceva audience, no? Quindi giustamente Roberto Carostino tira il bicchiere in faccia a Sgarbi che fa finta di essere insultato, in realtà è tutto preparato al tavolino. I famosi reality, cioè fatto si chiamano reality, se lo chiami reality forse vuol dire che normalmente penseresti che non è un reality. Si fondano sulla stessa cosa. I talent a cosa servono? A ricordarci chi è che può stabilire chi ha l'X Factor e chi non ce l'ha. Non siamo noi. Invece di interrogarci su chi è che accende i riflettori, come si fanno ad accendere e a spegnere i riflettori, che sarebbe la vera domanda che dobbiamo fare, la nostra domanda è: come faccio anche noi ad andare sotto per il riflettore? Come faccio anche io ad avere il mio momento di celebrità? Siamo ancora da Andy Warhol, ci siamo proprio nel momento in cui potremmo non essere più. C'è una cosa che non ho capito. Mi sembra che il tuo libro parli di agenda setting, che sarebbe l'industria culturale che riesce a imporre a noi che siamo il pubblico su quali argomenti pensare, quali argomenti conoscere, su quali argomenti avere delle... E da quale angolazione? Agenda setting e framing. Ecco, il framing può riguardare anche, credo, singole notizie che possono essere inquadrate in maniera diversa. Tu hai fatto l'esempio di Salvini che parlava dello sbarco di Carola Racchette. Mi viene in mente che Carola Racchette la puoi presentare come la speronatrice della motovedetta oppure come la persona che salva i seri umani. E mi sembrano due framing. Però intanto nessuno parla degli altri sbarchi che succedono quella stessa settimana in Sicilia. Sì, questa è la cosa che si dell'agenda setting, anche vabbè. Questa è la questione dell'agenda setting, giusto? In realtà è framing, perché si parla di migranti, ma solo del palcoscenico che permette quel racconto. Cioè, semplicemente si è deciso che chi sale su quel palcoscenico, il porto di Lampedusa, sa che davanti avrà tutte le telecamere del TG, ok? E poi tutti su Facebook, nessuno parlerà, che so, dei numeri del progetto, degli accordi con l'Europa, dell'accordo con la Libia, nessuno parlerà di quello che sta facendo Erdogan, nessuno parla del tema dei migranti in modo, come dire, da darti strumenti per farti una tua idea su questo, neanche dire la verità, che anche quello è preoccupante, il fatto che ci siano giornali che si chiamano la verità è veramente agghiacciante. No, ma almeno darti degli strumenti per arrivare a una tua. Allora, questo una volta remunerava il sistema dei media, non dico ai tempi di Luigi Bertini e Barzini, ma ai tempi di Woodward, no? E Bernstein, la inchiesta su Watergate. È un'inchiesta, se voi mi andate a rileggere tutti gli articoli, noiosa, non presidiava l'attenzione. Però il giornale, il Washington Post, si era fatto carico di dire: ma forse questa è una cosa veramente rilevante per gli italiani, perché noi qui abbiamo come presidente un corruttore che forse dovrebbe dare le dimissioni. Non era sta gran notizia, ruba l'occhio, non ci potevi fare l'ombra. Però per un mese aprivano tutti i giorni su questa gola profonda, gli incontri nei parcheggi, diciamo, alla fine, dopo un anno, ha dovuto dare le dimissioni. E perché? Perché in quel momento il successo di un giornale rispetto a un altro era la capacità di fare questo, di rispettare questo patto con chi leggeva il giornale. Gli Stati Uniti, nel giro di 10 anni, non era più l'editore del Washington Post a stabilire il business plan. Nel giro di 10 anni erano dei conglomerati, dove era la TV a decidere anche il destino di giornali, radio, cioè, quella è stata l'ultima inchiesta fatta non come foglia di fico, perché anche ora ci sono le inchieste fatte anche bene, ma servono per dire, vedi, questo, noi siamo il vero grande giornalismo, noi facciamo l'inchiesta su la pedofilia, no? La chiesa, però, quindi possiamo andare avanti con la lunetta tutto il giorno a inquinarvi le teste, visto che siamo quelli che investono in queste grandi inchieste, ma questo è l'attuale posizionamento dell'industria. Ai tempi era, no, noi vendiamo, il Washington Post scavalca il New York Times in quei mesi, cioè veramente il successo commerciale di un'impresa, che non deve avere paura di chiamarsi impresa, è mettere a valore il rispetto di questo patto per chi ti legge. Nel giro di 10-15 anni la TV ha imposto i suoi stili, i suoi linguaggi, perché la TV era, nessuno comprava anche programmi di informazione seri come che so, 60 Minutes di Dan Rare negli anni 70, cioè delle grandi cose, ma nessuno comprava, c'era sempre la Budweiser in mezzo, c'era sempre la Anheuser-Busch, la Buick, la macchina in mezzo a fare. E tu eri contento di sorbirti lo spot, perché poi dopo c'era Dan Rather che ti diceva che cosa stava succedendo in Vietnam, no? Prima ancora, no? Qua. E a un certo punto alla TV è stato chiesto: ma tu non devi fare l'inchiesta, devi evitare che la gente guardi Peter Jennings, che la gente guardi Tom Brokaw. E a quel punto è diventato infotainment. Okay. Ti vendevano a te che ancora pensavi di informarti, non strumenti per farti un'idea su quello che succede, ma un racconto che ti tiene agganciato allo schermo finché non appare fatalmente la Michelob che devi comprare al supermercato, la Bibi. Oggi è il riso senza lattosio, ma non è diverso. Allora, e quando questa regola ha invaso, perché ci sono stati dei grandi conglomerati economici, no? La TV compra i giornali e le radio, e sono rimasti due per un po', no? È rimasto Viacom contro Turner, ma oggi addirittura sono gli internet provider a comprarsi tutti questi conglomerati, quindi Comcast negli Stati Uniti che si compra NBC e Universal Pictures, quindi anche i cinema, i film, cioè sono delle enormi fabbriche di entertainment che nei ritagli di tempo fanno anche informazione. Voglio dire, a proposito della domanda, che la differenza tra agenda setting e framing viene spiegata molto bene nella prefazione del libro, che è stata scritta da un altro luminare della comunicazione, che è il luminare, che è Giovanni Bocciartieri, anzi lo salutiamo importantissimo, quindi basterà veramente leggere la prefazione del libro per avere molto ben chiara la differenza, che è sottile, però c'è. Niente, quindi io non so se forse Alessandro vuole dire qualcosa per concludere. No, ringraziare il pubblico e ringraziare voi per questa bella presentazione, la speranza di riaverlo per approfondire. Ci auguriamo tutti, se non è che cioè interessante aprire quest'altra finestra sul festival che lo arricchisce sicuramente. Speriamo bene, gli strappiamo una promessa. Eh sì. Assolutamente. Io poi finire, cioè, forse la facciamo da dover andare in Ucraina, capisco, ma visto che stiamo in Sardegna non lo fa. Io con il microfono, perché così sia a favore di telecamera e possiamo essere sicuri.